Palmina, Amara Terra Mia, che sarà in scena al Tordinona da giovedì fino a domenica 5 febbraio. Della compagnia Prisma ne parliamo con Barbara Grilli, che sarà in scena. Barbara, ben ritrovata su queste frequenze. Grazie Federico, buongiorno a tutti, grazie mille. Allora, per chi non lo conoscesse, raccontiamo un po' questa storia. Sì, questa è una storia realmente accaduta, ecco, parliamo di una storia avvenuta in Puglia nel 1981, sono passati quindi diciamo 35-36 anni, ecco, esattamente, una storia che riguarda Fasano, che fa provincia di Brindisi, la tragedia di una ragazza, Palmina Martinelli, di appena 14 anni, che si è ribellata alla prostituzione e ahimè è stata arsa viva, quindi subendo totalmente l'influenza della mafia pugliese, quindi parliamo di Sacra Corona Unita. Ecco. Come eravate venuti a conoscenza di questa storia e come avete deciso la rappresentazione teatrale? Dunque, a conoscenza di questa storia in realtà siamo venuti come tanta gente, perché questa è una storia che ha spopolato in quegli anni, poi è stata sepolta dopo l'assoluzione, perché ci sono stati 3 gradi di giudizio. E poi Giovanni, che è l'autore e il regista della compagnia, si è documentato tanto, e siccome noi ci occupiamo di teatro civile, facciamo insomma un po' una lotta per strada attraverso il teatro, abbiamo deciso di intraprendere un percorso. E quindi Giovanni ha scritto questo testo, rendendolo un monologo tutto al femminile, parlando di lei, e quindi siamo in contatto con il pubblico ministero che si occupò del caso, del dottore che la visitò la prima volta, delle sorelle di Palmina, e andiamo in giro per tutta l'Italia a denunciare. Senti, come lo avete strutturato lo spettacolo? Lo spettacolo è uno spettacolo molto semplice, è, come dicevo prima, è un monologo che però fa un excursus di tutti gli anni Ottanta, proprio perché la vicenda è incentrata nasce nel 1981. E quindi introduciamo lo spettatore nel mondo fantastico degli anni Ottanta, partendo dalla musica, dalla politica, dalla condizione storica di quel periodo, fino ad arrivare poi alla condizione pugliese di Fasano e nello specifico della famiglia Martinelli, attraversando tutti i gradi di giudizio e quindi quello che sappiamo ancora oggi, ovvero che adesso il caso andrà davanti alla Corte di Strasburgo per i diritti civili, e quindi poi inizierà un altro processo per cercare di riconoscere la figura di Palmina, ecco. Quindi in realtà è un monologo che a tratti anche molto divertente, nonché sarcastico, attraversando il dolore di questa vicenda. Questo è. Quindi noi saremo lì, insomma, da dopodomani fino a domenica, per replicare. Lo spettacolo ha una durata di un'ora e insomma siamo qui per questo. Senti, da quanto tempo lo state portando in giro e che riscontri avete avuto? Lo spettacolo ha debuttato a febbraio dell'anno scorso e siamo stati un po' in giro qui a Bari, l'abbiamo portato in diverse associazioni e teatri, è un po' nell'hinterland barese, siamo spostati anche verso Lecce, Veglie, siamo contattati da diverse associazioni che si occupano di questo, e poi siamo stati selezionati per il Fringe che si è tenuto a Roma quest'estate presso Villa Ada, tant'è che la drammaturgia ha ottenuto una nomination, insomma, per come miglior drammaturgia, una nomination per il festival. E abbiamo iniziato un percorso molto interessante invece nelle scuole, tant'è che già fino adesso più di 3.000-4.000 studenti hanno potuto vedere lo spettacolo in mattinè, e quindi lo stiamo portando un po' in giro, e quasi a febbraio facciamo un anno, ecco, compiamo un anno a febbraio. Senti, per quanto riguarda la compagnia, ci dici anche due parole sulla compagnia Prisma? Sì, come no, la compagnia Prisma nasce circa 5 anni fa, grazie a un'idea di Giovanni Gentile e altri due artisti che sono due musicisti, Marco Bocci e Vito Liturri, nascono una serie di idee e mettono su un po' di spettacoli con una base di con dei sottofondi diciamo musicali dal vivo, intraprendendo storie che riguardano per esempio la Shoah, uno spettacolo che è stato titolato come Io e Miriam, che è andato in scena diverse volte. E poi io e Giovanni ci siamo incontrati più tardi, abbiamo messo su uno spettacolo insieme a un altro attore che si chiama Le Due Vergini, che ha vinto poi un premio Sipario del 2015 come miglior testo di un premio nazionale. E poi abbiamo iniziato a lavorare su Palmini. Adesso c'è un debutto molto importante a maggio di cui ancora non vi svegliamo nulla, poi ci risentiremo. Insomma, la compagnia sta più o meno, siamo sui 350-400 repliche. Ecco, noi ci muoviamo in modo del tutto autonomo, e questo ci teniamo a precisarlo. Però siamo molto in giro, quindi facciamo tanto teatro civile e sociale. Bene. Ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, guarda, ci sono i nostri numeri di telefono, noi siamo Barbara Grilli e Giovanni Gentile, ci si può trovare assolutamente sul social, su Facebook, sulla pagina del Teatro Tordinona noi ci siamo, ci sono i nostri numeri, c'è una mail che fa riferimento allo spettacolo specifico che è la seguente: palmina.amaraterramia@gmail.com, ovviamente tutto minuscolo e attaccato, lì potete chiederci qualsiasi cosa. C'è un promo dello spettacolo che si può vedere scrivendo appunto su YouTube promo Palmina e potete usufruirne per 2 minuti di spettacolo, ecco un piccolo teaser. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con Palmina, Mara Terra Mia, al Tordinona qui a Roma, da giovedì 2 fino a domenica 5 febbraio. Un abbraccio e un in bocca al lupo. A te e a tutti gli ascoltatori, grazie mille e crepi. Grazie mille. A presto. Bocca al lupo a voi. Ciao a Barbara. Ciao. A presto, buona giornata.